6H. Ascolta e trasforma. Mio figlio è intelligente. I miei figli sono intelligenti. Mio fratello è simpatico. I miei fratelli sono simpatici. Tua figlia è bella. Le tue figlie sono belle. Tua nonna è anziana. Le tue nonne sono anziane. Suo zio è ricco. I suoi zii sono ricchi. Suo cugino è povero. I suoi cugini sono poveri. Nostra nonna è buona. Le nostre nonne sono buone. Nostra sorella è sposata. Le nostre sorelle sono sposate. Vostra cugina è famosa. Le vostre cugine sono famose. Vostra cugina è fidanzata. Le vostre cugine sono fidanzate.